Storiacce d'autore di Raffaella Calandra. Oggi è il giorno più bello della mia vita, perché compio 10 anni. Mi sposo col mio principe azzurro. È un amico di papà, lui ne ha 47. Lui dice che è un ottimo partito e che se mi sposo con lui aiuto loro. Io gli ho detto che sono contenta, proprio come la mamma mi ha detto di dire. Devo sempre rispondere di sì. Il regalo più bello è stato quello che non devo andare più a scuola, anche se la maestra diceva che ero brava. Non importava tanto a me, era inutile. Adesso dovevo stare solo con lui a casa. Io sono felice e se tutto va bene diventerò fra 9 mesi mamma. E sarò ancora più felice. Oggi è il giorno più bello della mia vita e non devo piangere mai. Nella terra delle spose infelici non c'è spazio per le lacrime. Non sono concesse alla sposa bambina che a 13 anni viene destinata ad un uomo ben più grande che non vuole e non sono concesse alla donna che si innamora del tipo sbagliato. Nella terra delle spose infelici ci sono donne che letteralmente annullano se stesse per un legame, a volte perché chiuse nelle prigioni delle case che loro stesse hanno contribuito a costruire o a volte addirittura disintegrate nel corpo, non solo uccise, ma fatte sparire in ogni traccia. C'è un monolite dalle enormi dimensioni a vegliare sulla terra delle spose infelici e l'ombra di Pietra Cappa nel cuore dell'Aspromonte si è impregnata negli anni pure di quelle lacrime troppe volte soffocate. La situazione di queste ragazze giovani, si fidanzano, le alleanze poi sono fatte dai grandi, dagli adulti e quindi oltretutto anche come ho segnalato questi bambini dopo 13 o 14 anni non vanno più a scuola praticamente. Per una buona parte è così di queste ragazze che è finita la terza media, per loro è finito le scuole perché c'è già questo impegno, non possono più frequentare le scuole, normalmente è così. Se vogliamo una dinamica medievale. Sì, sì, dei patti tra le famiglie. Fa parte anche di tutto l'insieme, di tutta una mentalità, per cui anche le mamme già sposate non possono, per esempio, passare in certe vie, in certe strade. Se sono osservate poi dai papà o dagli adulti, poi vengono rimbrottate, poi vengono castigate, insomma. Questo succede anche per le donne adulte. Queste donne sono un po' tutte un po' schiave della situazione, dell'ambiente, delle circostanze. Sembrano immagini di un'era assai lontana, nel tempo e nello spazio, quelle evocate da Don Emanuele Magioni, che negli anni in cui è stato parroco in Calabria cercò di capire il più a fondo possibile quel medioevo in cui le donne di questa terra continuavano ad essere recluse. Ma le storie che tramandano le più anziane, col fazzoletto nero in testa e il medaglione del marito morto ben in vista, non appartengono solo ad un passato estinto. Anche se ridotte nei numeri, si ripetono ancora oggi, se è vero, come storiacce di Radio 24 ha denunciato, che solo poco tempo fa una ragazzina della Locride è stata costretta ad un fidanzamento forzato con un giovane più grande di lei per stringere un patto di 'ndrangheta tra clan. Un'alleanza voluta per prima dalla mamma, che la piega alla fine a quell'unione, anche se lei invece avrebbe simpatie per qualcun altro. Ma non ci sono lacrime e non ci sono sogni nella terra delle spose infelici, come quelle che decidono una fuitina nella ricerca di una nuova vita o quelle ancora a cui una propria vita viene negata. L'ultima, Maria Chindamo, 44 anni e un destino segnato il giorno in cui aveva deciso di separarsi dal marito. Lui si tolse la vita e un anno dopo, quando lei stava ricominciando una nuova esistenza, la sua di vita è stata fermata, sequestrata, quasi sicuramente uccisa e fatta sparire, forse in quella montagna che in passato è stata preziosa alleata nell'industria dei sequestri, poi diventata primo ammortizzatore sociale accogliendo come una madre le tantissime guardie forestali, ma di sicuro quella montagna è sempre rimasta all'interno della sua gente, la gente della montagna, che molto bene conoscono Cataldo Perri, musicista, e Carmine Abate, divenuto cantore con i suoi libri. L'ultimo, L'attesa della felicità, edito da Mondadori, di uno spicchio di cultura calabrese. La distingue con una fascia sociale, diciamo di appartenenza proprio socialmente, anche a un humus culturale che purtroppo è molto facile poi avere contiguità con ambienti malavitosi, quindi diciamo laddove c'è meno cultura, meno affermazione sociale, le donne che hanno meno istruzione purtroppo molte volte sono quasi fisiologicamente vanno poi a contrarre dei matrimoni con gente malavitosa, e quell'ambiente dove sono vissute fino all'età del matrimonio sembrerebbe quasi che sia l'universo del mondo intero, per cui è facile questa contiguità con questo mondo malavitoso, e purtroppo molte volte è facile che ragazze che magari avrebbero voluto augurarsi un altro destino sono costrette a sposare diciamo malavitosi, che poi chiaramente li coinvolgono in fatti atroci. Quando poi tentano di ribellarsi perché capiscono che il mondo è anche altro, che la vita è anche altro, che probabilmente non è solo il microcosmo dove loro sono vissuti impregnati di sottocultura, quando tendono di ribellarsi chiaramente è troppo tardi, perché purtroppo il codice malavitoso non ammette sgarri a queste, non ammette deroghe, e purtroppo risolve le questioni sempre con l'unica arma di cui sono a disposizione, la più terribile, più tremenda, che è quella dell'atto di forza, della violenza, della sopraffazione fisica. Carmine Abate, i suoi libri raccontano molto spesso di tradizioni antiche, ma in queste tradizioni antiche, che ad esempio La collina del vento, anche Il bacio del pane ripercorrono, che tipo di rapporto c'è nei confronti delle donne? Io credo che la situazione attuale in fondo non sia altro che il residuo di una cultura ancora ancestrale, addirittura oserei dire di tipo feudale, che parte tutto diciamo proprio come spartiacque dagli anni 50, no? Quando ancora in Calabria c'era il latifondismo. In quella zona c'era una sola persona, il latifondista, che possedeva i terreni, per esempio al mio paese, del mio paese e di 5 paesi del circondario, e c'erano dei rapporti davvero di tipo feudale. All'interno di questa cultura le donne contavano poco e c'erano i matrimoni di combinazione, e la donna ha fatto però a partire da allora ai giorni nostri grandissimi progressi a livello di allontanamento da questa sopraffazione sociale. La cultura di un popolo si vede proprio dal rispetto che si ha nei confronti delle donne, e io non a caso recupero le mie radici, la cultura arbrèche, perché tutte le donne avevano lo stesso vestito di gala, cioè si sposavano con lo stesso vestito, la cosiddetta zoga, il bellissimo vestito cucito con i fili d'oro, che stava a significare proprio il rispetto nei confronti delle figlie, delle madri e delle spose, ma anche l'uguaglianza delle donne tra di loro. Non ci abita da sposa, invece, per le donne infelici di questa parte della Calabria, prima della fuitina con l'uomo che credeva le avrebbe aperto un'altra vita e che invece le costruì attorno solo un'altra gabbia, una sola cosa una ragazzina aveva chiesto: che si vedesse il mare quel giorno da qualche parte. In fondo è pur sempre tra due mari questa punta dello stivale, rimasta come intrappolata ancora in un pezzo di passato, da cui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce d'autore. Storiacce d'autore. Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui porto il nome. Proprio come i protagonisti dell'ultima saga raccontata da Carmine Abate, a migliaia sono partiti anche dalla Calabria, ma da un certo punto in poi a voler partire e soprattutto a non voler più tornare sono state soprattutto le donne. Furono le ragazze e le figlie dei boschi a voler andare lontano da quella terra, stretta sì tra due mari ma pure imprigionate in alcune aree, in un passato ancestrale rimasto impigliato nei fitti alberi dell'Aspromonte. Partire per respirare, partire per sfuggire alle leggi ancestrali rimaste talvolta immutate, come quella che ha spinto tuttora una mamma della Locride ad imporre nozze forzate alla figlia tredicenne per siglare un patto tra i clan Comiso e Colusso. Non succede nell'Afghanistan dei talebani, ma nella Calabria di oggi, dove è la mamma a chiamare il futuro sposo per convincerlo a non desistere nonostante i rifiuti della figlia, che ha una cotta invece per un suo coetaneo. Si capisce allora come restino anche oggi le donne le prime a voler partire da certe zone della Calabria per sposare casomai un germanese, per dirla con le loro parole, e tornare a respirare. Anche se il fenomeno delle spose bambine che rinunciano pure alla scuola, una volta assegnate ad un uomo, è sempre più circoscritto, conferma Don Pino De Masi, parroco di strada calabrese, che di ragazzine, talvolta già mamme, ne ha incontrate tante. Queste storie erano molto più frequenti fino ad alcuni anni fa. oggi sono forse solo rari casi. Parlo di bambine, mentre i fidanzamenti forzati in altra età per motivi di 'ndrangheta e via dicendo, quelli sono ancora molto frequenti. In quell'ambiente si incomincia anche a ragionare in modo diverso, cioè una bambina di 13 anni non è poi in condizione di contrarre matrimonio. Lei ha detto che in passato ha incrociato casi del genere. Sì, facevano la cosiddetta fuitina, scappavano col ragazzo che normalmente era più grande e a quel punto venivano costrette a fare il matrimonio riparatore. I cosiddetti matrimoni di 'ndrangheta alla fine non venivano decise dagli interessati, ma venivano decise dai genitori. O in ogni caso, se non spingevano al matrimonio a quell'età, però già c'era la promessa sposa, capisci? Oi bella. Per le femmine essere spose e tramite di future alleanze per i maschi, essere i soldati di domani per sostituire padri, fratelli, cugini più grandi, ammazzati, arrestati o latitanti. In certe famiglie di 'ndrangheta, fin dalla nascita, ciascuno conosce già il suo destino e lo accetta e lo rinnova come in un copione già scritto, come quello che ha portato un adolescente a tatuarsi un carabiniere sotto la pianta del piede per poterlo calpestare ad ogni passo, come quello che ha spinto intere generazioni di decenni ad accettare unioni forzate con rassegnata obbedienza, perché così è all'interno di queste famiglie che diventano clan, dove non c'è spazio per i sentimenti né per le libertà. Ma gli stessi figli diventano merci, riflettono Cataldo Perri, medico e musicista calabrese che insieme a Carmine Abate, autore della Felicità dell'attesa, edito da Mondadori, in giro stanno raccontando le Calabrie. Queste leggi ancestrali che hanno loro, della sopraffazione fisica, del mantenimento del loro potere indranghetista sui pilastri della famiglia, e chi meglio della famiglia può garantire l'omertà assoluta nel delinquere? E come avveniva anche negli annali della storia, quando diciamo un impero voleva allargarsi, un principe sposava una principessa di un'altra nazione per poter allargare il loro potere. Così avviene chiaramente anche nell'ambiente indranghetista malavitoso, dove una ragazza tredicenne possa essere addirittura costretta a sposare un rampollo di una famiglia malavitosa, solo per cementare ulteriormente con patti di sangue e legami di sangue il potere indranghetista mafioso. Una sposa bambina in Calabria, così come in Bangladesh o in Yemen, è questa sacca di un passato che è ancestrale e violento, che per certi versi ancora colpisce. Carmine Abate. Vivendo in Trentino, non vedo una grande differenza tra il Trentino e la Calabria, proprio a livello di rapporti sociali, perché in entrambi le regioni, in entrambe queste parti d'Italia che sembrano opposte, resistono ancora dei valori della società contadina, però qua in Trentino questi sono valori che vengono coniugati in maniera positiva, e alle donne in Calabria, alle donne invece che vivono all'interno di queste realtà deprivate, tradizionali, ancora legate a una sorta di, tra virgolette, feudalesimo, non resta poi che andarsene. L'immigrazione molto spesso è vista, soprattutto dalle donne, come una grande valvola di sfogo. Non a caso le persone che volevano partire e le persone soprattutto che non volevano più tornare al paese erano le donne. Perché poi in Germania vedevano che i rapporti all'interno della famiglia erano completamente diversi, o la donna poteva davvero respirare. Andare fuori per poter respirare, andare fuori per poter trovare una propria dimensione, perché all'interno di questa realtà si tramandano tradizioni antiche e belle, come può essere il ballo tondo, come può essere l'antica tradizione del bacio del pane, tipica della civiltà contadina, della cultura contadina, non solo in Calabria, ma all'interno di quel mondo si tramandano anche da madre in figlia abitudini come quella della fuitina. Ecco, Cataldo Perri, che cosa significa per dei ragazzi questa volontà di una ricerca di un altrove in una fuitina? io faccio il medico di famiglia, per cui conosco, diciamo, anche le situazioni sociali di molti ambienti degradati, e molte volte le mamme mi dicono: dottore, ognuno se n'è fiuta, è scappata col suo ragazzo, se n'è andata di casa, e è buono, perché così almeno evita di fare la cerimonia di matrimonio, che sono soldi, ristoranti, abiti da sposa ipercostosi, quindi è anche, ha un aspetto dal punto di vista economico, diciamo, vantaggioso, tra virgolette. Certo, è affuitina perché? Affuitina perché? Perché in un ambiente dove non si è vissuto mai la libertà di costumi sessuali, se si trova anche in un ambiente ristretto, costretto a vivere anche gli appuntamenti di nascosto, a non manifestare il loro amore, ma ripeto, sono situazioni marginalizzate, per fortuna la stragrande maggioranza della Calabria è cambiata e non è più così, allora è chiaro, laddove ci sono degli ambienti, delle società, delle culture così anguste, è chiaro che anche uno, proprio per dare sfogo quasi ormonale anche all'erotismo, è costretto ad istituzionalizzare un rapporto d'amore con la fuitina, e quindi poi un passo prepedeutico per, diciamo, un'unione di fatto, per un matrimonio, per poter vivere una vita di libertà anche di costumi sessuali. Mi ha sempre colpito quasi la dimensione della rinuncia del sogno. Nell'ultimo romanzo, no, La felicità dell'attesa, una delle protagoniste del romanzo si innamora di un germanese, vive fuori dal paese, ma si innamora di quest'uomo soprattutto perché rappresenta per lei la libertà, la possibilità di allontanarsi da questo mondo angusto dove lei, che è bellissima, viene criticata semplicemente perché entra nel bar, perché parla con altri ragazzi, perché nell'autobus che li porta da Crotone in paese e si sente anche lei libera perché è una ragazza che studia, però viene criticata come una poco di buono. Sposa quest'uomo e quest'uomo poi si rivela invece diverso da quello che, no? Cioè un violento. Ripercorre quello che è una dinamica anche classica di questa situazione, cioè la fuitina vista come una via di fuga da una situazione vissuta spesso di famiglia come una gabbia, per finire a volte in una gabbia che è ancora più stretta e che spesso è anche violenta, come dicevamo, che è quella della famiglia in cui si finisce per arrivare. Cataldo Perri, è così? Una ragazza una volta è venuta a raccontarmi in ambulatorio un po' di anni fa, mi diceva che era proprio vittima di violenza da parte del marito e che era un tranchettista del paese. Io mi sono chiaramente più volte ho detto: ma perché non lasci, perché non parti? E lei rassegnata, disperata, con gli occhi spenti. Non è facile, dottore, non è facile, ho dovuto subire molto. Fatto sta che poi dopo un po' di tempo, diciamo così, la ragazza è sparita dal nostro paese. A volte mi ha raccontato delle cose veramente, delle situazioni così, così gravi, così offensive per la civiltà. Che significa cose offensive per la civiltà? Che cosa le ha raccontato? Una gelosia, diciamo, morbosa, di quelle gelosie che non poteva nemmeno affacciarsi. Tutte le cose che decideva lui si dovevano fare assolutamente, ma la picchiava per stupidaggine, per dire ci ha messo 10 minuti in più per fare la spesa. Per fortuna è riuscita a partire dal nostro paese e chiaramente a rifare, e mi auguro tanto per lei, a rifarsi una vita. Ed è lì che allora sempre si torna, a partire per rifarsi una vita, partire per tornare a respirare, partire per liberarsi dal peso del passato. La stessa richiesta che Giusy Pesce, ora collaboratrice di giustizia, fece ai magistrati quando decise di iniziare a raccontare dall'interno una delle famiglie del Gotha dell''Ndrangheta, la richiesta cioè di salvare i suoi figli da un destino segnato e che lei per prima aveva sperimentato con una fuitina e la prima gravidanza già a 14 anni. Non ci fu abito da sposa, nel sogno d'amore per questa ragazzina diventata troppo presto mamma, che ha saputo proprio per questo andare fino in fondo come un'eroina tragica d'altri tempi, con le sue fragilità e i suoi demoni, quali si mostrarono per primi anni fa ad Alessandra Cerreti, PM dell'antimafia Regina, ora a Milano. È una storia a lieto fine. Giusy Pesce è riuscita a tenere fede al suo impegno con lo Stato, si è messa a nudo innanzi al tribunale, si è fidata di questo Stato che le ha teso la mano. Tutto ciò lo ha fatto nell'interesse dei propri figli, per assicurare ai propri figli, che altrimenti avrebbero avuto un destino segnato nella struttura dell''Ndrangheta, un futuro di libertà. Io ritengo e spero che la storia di Giusy Pesce rappresenti un esempio da seguire. Si è parlato di una regola di eliminazione fisica soltanto per la colpa, tra virgolette, di aver tradito il marito, quindi l'adulterio già per l''Ndrangheta equivale a condanna a morte nei confronti, si badi bene, della moglie. Ovviamente non vale reciproca per l'uomo. Immaginiamoci in un contesto del genere la collaborazione con l'autorità giudiziaria. È una colpa assolutamente imperdonabile che va lavato col sangue, e le collaboratrici hanno spiegato che, a differenza che per Cosa Nostra siciliana, per cui era sufficiente per lavare l'onta d'onore che la famiglia d'appartenenza della persona da eliminare desse il consenso all'eliminazione fisica, per l'Andrangheta si va ben oltre, cioè è necessario che la materiale uccisione venga fatto per mano del fratello maschio più grande, in assenza del padre che quasi sempre è detenuto. Sì. E come Giusy, altre ex spose bambine divenute madri di 'Ndrangheta hanno ripetuto ai giudici del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria la loro richiesta di portare lontano i loro figli e le loro figlie, di farle respirare altrove, un'aria diversa. Ed è anche per questo che almeno 30 bimbi sono stati già tolti ai clan, che hanno così perso soldati per il loro esercito e future spose per le prossime alleanze. Per riascoltare questa, come tutte le altre storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!